si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Senza terremoti non esisterebbero dunque le montagne e forse neppure l'uomo e le altre forme di vita. Il terremoto non uccide, uccidono piuttosto le opere dell'uomo. E noi siamo già al lavoro con il sistema delle prefetture per assicurare una ricostruzione mafia free e mazzette free. Come? L'obiettivo è quello di fare una bonifica attraverso il sistema delle white list in modo tale che ci possa essere un sistema di partecipazione che sia fondato ovviamente sul merito e non solo su logiche emergenziali di affidamento diretto. Se non è stato fatto il miglioramento sismico e non adeguamento, chi non l'ha fatto? Chi non ha controllato? Chi ha sbagliato è giusto che va in galera, buttiamo tutte le chiavi e devono scontare quello che hanno fatto, perché cari signori non vi scordate che io c'avevo i figli là dentro, non giochiamo. 18 e 9 minuti, buonasera ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi con Si può fare. 800 24 00 24, le ultime parole, quelle del sindaco di Amatrice Pirozzi, che però... dimentica di dire che in questo momento agli occhi di molti a essere sotto accusa sono proprio le comunità locali, i responsabili delle comunità locali, perché sta venendo fuori di tutto, dalle inchieste, dai giornali, soldi non spesi, soldi stanziati ma spesi per fare altre cose. Da chi era responsabile in quel momento proprio delle comunità locali? Rischi sottovalutati? È possibile. 800 24 00 24. Ogni giorno però ha la sua pena. Oggi è il giorno del Fertility Day. Allora, c'è una campagna lanciata dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin per il 22 settembre. Sarà il giorno della fertilità, Fertility Day, con slogan del tipo "La fertilità è un bene comune", oppure "Una bella ragazza in vista con una clessidra in mano". E la scritta che dice "La bellezza non ha età, ma la fertilità sì". Come dire, sbrigati a fare figli, altrimenti passa il momento. Allora, al di là del cattivo gusto, secondo alcuni, c'è stata una levata di scudi, perché è giusto sensibilizzare sul rischio di denatalità nel nostro paese, è giusta una campagna che ci ricordi quanto è bello essere madri, anche padri magari, oppure è un'intrusione intanto dello Stato in un ambito personale, della donna soprattutto, sul modello di uno Stato paternalista. Qualcuno ha twittato, ecco dove l'avevo rivista sto Fertility Day, twittando la foto di una pagina della Donna Fascista, un giornale di epoca fascista. O anche semplicemente è di cattivo gusto ricordare alle donne lo scorrere del tempo in un paese nel quale se si fanno figli tardi è anche perché c'è la disoccupazione giovanile, non dimentichiamocelo, al 40%. 800 24 00 24, alcuni tweet voglio leggerveli perché la rete si è scatenata. E allora... per dirne una, Bottura, il dubbio, Fertility Day con fare figli, siamo proprio sicuri, con la foto del Trota, il figlio di Umberto Bossi. Oppure Michela Murgia, io non avevo intenzione di procreare, ma la campagna ministeriale del Fertility Day mi ha proprio convinta. Vabbè, ironia su questa cosa. 800 24 00 24. Invece il presidente della Lombardia Maroni vuol far tutto a Milano, vuol portare i terremotati nelle case dell'Expo, vuol fare le Olimpiadi a Milano. Ho letto che io litigo con Sara, io non litigo con nessuno, io ho lanciato un'idea, dopodiché può essere, vediamo, praticabile. Io penso che se fossero a Milano noi sapremmo come farle. Sapremo come farle e sapremo come farle bene, no? Visto quello, sarebbe il bis di Expo, un successo bis dopo Expo, dopodiché non spetta a me la decisione, ma insomma se Roma rinuncia io credo che Milano dovrebbe candidarsi. Pensare che nella prospettiva di una impresa come l'Olimpiade, una delle prossime Olimpiadi, Roma dica di no, è come tagliarsi i coglioni, insomma, no? Fatti dire di no da loro, cioè tu partecipi e poi perdi, ma dire di no prima nella speranza di poter vincere mi pare un po' autolesionistico. 800 24 00 24, ancora Sgarbi sul sindaco di Roma, Virginia Raggi. La Raggi fa tenerezza e voglio riprodurre, perché la provocazione sia più forte, le parole tenere di Vincenzo De Luca: una bambolina imbambolata. Ora, io non ci trovo nulla di offensivo, però è evidente che di fronte ai tanti problemi che si pongono a Roma, la figura di questa sindaca appare molto fragile, poi probabilmente ha una grande forza interiore. At first I was afraid, I was petrified, I kept thinking I could never live without you by my side, but then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock, I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Oh, allora, i primi a cercare di tornare a vivere, a tornare alla normalità, a sopravvivere al terremoto sono i baristi, strana categoria i baristi. È con noi Vincenzo De Santis, figlio di titolare del bar Il Pinguino a Grisciano, siamo in una frazione di Accumoli. Buonasera. Buonasera. Allora, intanto il nostro cordoglio per, lo abbiamo detto tante volte, ogni volta che ci siamo collegati con i luoghi del terremoto, da parte mia, nostra, di Radio 24. Com'è l'umore? Grazie, prima cosa, l'umore va meglio. Cominciamo un po' a organizzarci bene, siamo tanto aiutati, quindi le cose cominciano ad andare bene. Dunque, Grisciano è una frazione di Accumoli, una piccola frazione, sappiamo che sono tante le frazioncine di questi paesi di Appennino. La curiosità è che il vostro bar è di legno ed è rimasto intatto. Intanto. Sì, praticamente ha subito lievissimi danni, quasi irrisori, quindi siamo riusciti subito a essere pronti. Era una sorta di piccola baita, sì, se abbiamo capito bene. Sì, un piccolo chalet in legno in un piazzale isolato, quindi non ha subito danni neanche dalle costruzioni intorno. Diciamo. Anche questa è una conferma, una dimostrazione che le strutture in legno tengono, una beffa forse anche, perché in realtà poi le vostre case, Vincenzo, invece, se ho capito bene, sono andate distrutte. Sì, sono fortemente lesionate, sia la mia che quella dei miei genitori. E adesso dove state? In tenda? Sì, stiamo qui nelle tende che hanno affrontato qui vicino al paese, stiamo qui. E com'è nata l'idea di tornare subito, insomma, abbastanza rapidamente nel bar per cercare di tornare a vivere? Ma veramente la notte che è successo, visto che, ripeto, è uno spiazzo ampio, ci siamo trovati tutti qua, quelli del paese con le macchine. Ho aperto per prendere l'acqua, per prendere le prime cose. Sono arrivati subito questi della protezione civile che hanno messo la cucina, hanno aperto il tendone e io praticamente non ho chiuso più. Il primo giorno abbiamo fatto un po' di pasta per tutti quelli che stavamo qui e è così. Cioè, praticamente il suo bar è diventato un po' la base quasi della protezione civile. Sì, io nel piazzale mio del bar ho l'ospedale, la mensa, la cucina e le tende dei soccorritori, quindi siamo tutti qua. E quindi la sua è una di quelle abitazioni. Di che anno era la sua casa, Vincenzo? La mia casa è vecchia, era la casa paterna dei miei genitori, quindi è anni 30, anni 40. Aveva fatto a sassi. Aveva subito qualche lavoro di ristrutturazione? avevo finito veramente dentro, che io mi sono sposato da poco, un mese fa, si sistemò. Un mese fa. Allora, adesso facciamo una piccola pausa per il traffico, poi torniamo, perché la questione adesso che sta emergendo dai giornali, le indagini, insomma, i soldi che sono stati spesi ma non spesi, stanziati per la ricostruzione anche dopo il terremoto del 97 dell'Umbria, insomma, stanno venendo fuori tante responsabilità. Naturalmente la magistratura indagherà, però voglio capire se siete arrabbiati, siete indignati, ce l'avete con qualcuno anche in particolare, oltre naturalmente a preoccuparvi di tornare a vivere. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. 18 e 19, buonasera, ben ritrovati ascoltatori, vi aspettiamo all'800 24 00 24. Stiamo parlando ancora del terremoto nel Lazio e siamo con Vincenzo De Santis, figlio dei titolari del bar di Grisciano, una frazione di Accumoli. Ha il nome che avevi, perché il bar è in Italia la piazza del paese, il bar è proprio è la base di tutto, no? Cioè è di lì che sì, si intrecciano le storie di tutti e voi siete adesso di nuovo in prima linea. Mi ha incuriosito il nome, il pinguino, forse perché d'inverno fa freddo lì a... Esatto, per il motivo è quello. Sì. Una sorta di piccolo chalet di legno che tra l'altro ha resistito al sisma, non ha riportato danni il vostro bar? No, cose irrisorie, si è fessurato il pavimento, ma è la piattaforma di cemento, quindi non c'è pericolo. Siamo ecco, ma che, cioè, ve l'aspettavate una cosa del genere? Che impressione fa una struttura di legno che rimane in piedi e case invece anche ristrutturate, anche più recenti rispetto alla sua, che invece sono cadute giù? Come situazione è irreale, perché io dietro, le case che ho dietro, il 90% sono distrutte. Le altre sono molto rovinate e il bar sembra... No, sembra, non è successo niente. È così. Non... È strano, ma è così. Sta lì da solo e basta. Senta, insomma, si sta leggendo sui giornali che, per esempio, dopo il terremoto del 97 che colpì l'Umbria, ma che toccò anche le zone del Lazio dove vi trovate voi, sono stati fatti tanti lavori, però sono stati spesi anche male spesso dei soldi, sono stati spesi per altre finalità, non per adeguare le case, stesse ditte che lavoravano, stessi progettisti che facevano lavori appunto spesso anche sbagliati. Siete arrabbiati per tutto quello che sta venendo fuori, lo sapevate? Questo abbiamo scoperto l'acqua calda un'altra volta, sicuramente c'è rabbia, ma purtroppo siamo anche abbastanza abituati a queste situazioni. Io posso dire per la nostra realtà, qui nel paese non è stato fatto un lavoro perché non c'è stato un danno, quindi non è stato fatto niente. A livello di amministrazione, se per i locali pubblici, se per le scuole, se per altre strutture pubbliche sono stati fatti dei lavori e se sono stati fatti bene o male, io non lo so, non lo posso sapere. Però come succede in tutte le situazioni, quando succede un'emergenza i soldi arrivano, poi i soldi vengono spesi male o non vengono spesi per niente o non si sa che fine hanno fatto. Però poi dopo se ne paga il prezzo. Aspettate anche voi che emerga un po' di chiarezza su questo, cioè avete voglia di sapere se ci sono delle responsabilità, eccetera? Ma sicuramente, anche perché se emergono le responsabilità del passato speriamo che non succeda lo stesso anche adesso. Perché se no è inutile stanno a parlare, è inutile cercare i responsabili, è inutile cercare tutto. Noi vediamo per la situazione nostra, sembra che le intenzioni sono più che buone. L'organizzazione sembra buonissima e domani ci dovrebbero far sapere qualcosa di più specifico. Vediamo. Senta, per come sono iniziati i soccorsi, lei ha detto per ora le cose stanno andando bene, no? Ricevere i soccorsi è sicuramente... l'abbiamo detto più volte, un diritto, non è un'elargizione, è un qualcosa che vi spetta. Ma adesso cosa vi immaginate che possa accadere? Delle strutture temporanee dove ospitare le persone, delle tendopoli, o non volete delle tendopoli? Allora, qui le tendopoli sono impossibili da avere, perché adesso ancora il tempo si assiste e possiamo stare in tenda. ma d'inverno qui non è pensabile restare in tenda, non è pensabile restare anche nei container. E quindi? Perché è insopportabile. Quello che dicono che si vorrebbe fare forse è mettere delle costruzioni in legno come il mio bar e di adibire un'area per quella in attesa della ricostruzione. E sarebbe la soluzione migliore. Quanto possono scendere le temperature in inverno, anche sotto zero, lì dalle vostre parti? Io ti posso fare esempio, quando andavo a scuola io che prendevamo il pullman la mattina alle 7, noi stavamo a meno 12, meno 13 tutte le mattine. Quindi proprio gelo totale, gelo totale. E come fai a stare in tenda a quelle temperature? No, infatti è inimmaginabile, è inimmaginabile. Cioè. E l'ipotesi di un commissario, come è accaduto anche in passato, si è fatto il nome di Vasco Errani che ha curato un po' la questione del post remoto in Emilia Romagna. Se fosse gestito come il terremoto in Emilia-Romagna, visto la velocità che hanno avuto nel risolvere la maggior parte dei problemi, sarebbe ottimo. L'importante è che chi viene designato sia una persona capace e una persona volenterosa, tutto lì. Poi chi è? Va bene, in bocca al lupo, grazie Vincenzo. Grazie a voi. Questa era la storia del titolare del bar Il Pinguino a Grisciano. Siamo a una frazione di accumuli, si cerca di tornare a vivere, ma ci sono anche tante paure, tante preoccupazioni. E tante perplessità su come si tornerà a vivere, perché se si ripeteranno gli errori del passato, ed è già accaduto tante volte, allora non c'è da stare molto, molto allegri. 800 24 00 24, cominciamo con gli ascoltatori. Federico da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Senti, io chiamavo perché l'altro giorno mi è capitato gli occhi su una fotografia del Vesuvio. Non so se ha presente cosa hanno costruito sulle pendici del Vesuvio. Vagamente, quindi, vagamente, sì. Esattamente. Chi ce lo dica lei, ce lo ricordi lei? Ma è praticamente costruito tutto attorno, sì. Ed è una cosa che adesso, poi noi siamo bravissimi a fare i funerali di Stato, il discorso del Vescovo, lazzi e mazzi di ogni tipo, ma ci abbiamo delle cose talmente grosse, talmente evidenti, davanti agli occhi, poi adesso tutti, vabbè, chiaramente tocchiamo ferro, appelliamoci a San Gennaro, tutto quello che volete, ma dai, cioè, sono cose evidenti. Poi se dovesse, spero che non succeda mai, però se dovesse mi immagino le polemiche, la magistratura che indagherà, perché hanno costruito, ma dai, è una cosa talmente evidente che cioè, trovano un po' il valore che trovano queste polemiche, queste cose, andare a vedere il... Cioè, sono cose che si sanno. Sì, però si sanno, però rivedersele in faccia di nuovo non va bene, insomma, fa male. Sicuramente. Io poi basta girare la testa, dove invece sono stati fatti, per esempio, dei lavori fatti bene, ci sono dei casi virtuosi. Norcia, l'abbiamo detto più volte, un paese che ha colto l'occasione del terremoto del 97 per fare degli adeguamenti antisismici fatti bene, quindi volendo si può. Questo... No, sicuramente, non lo metto in dubbio. Però vedere una casa costruita alle pendici del Vesuvio, cioè, per quanto possa essere... È il colmo, il paradosso. Mario, grazie. Bene. Anzi, Federico, grazie, buona serata. Mario da Palermo, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Sì, io volevo intervenire per quanto riguarda la campagna sulla fertilità del ministro Lorenzini. Sì. E volevo dire che mentre un ministro fa una campagna che è solo una perdita di tempo per fare comprare figli alle donne, poi... un altro ministro le ricatta per le assunzioni e le manda a 1500 chilometri da casa, lontano da bambini e famiglie. Quindi mi sembra che non ci il sia il ministro un dell'istruzione e la deportazione degli insegnanti. Però lì almeno un lavoro ce l'hanno. Pensiamo che c'è una disoccupazione giovanile del 40%, quindi quelli stanno peggio ancora di chi ha un lavoro e magari si deve trasferire, perché uno i figli se li può anche portare dietro. Se deve... Però il lavoro bisogna darlo con i diritti, sì. Non con i ricatti. Comunque, insomma, al di là di tutto, Mario, a casa. Al di là di tutto, lei trova. No, dopo 15 anni che un insegnante ha fatto funzionare la scuola e ha cresciuto dei bambini. Quindi ma lei c'ha il dente avvelenato perché è un insegnante? Non solo io, siamo circa 100.000 persone di famiglie che abbiamo il dente avvelenato, quindi credo che sia una cosa. No, ma lei in particolare, le ho chiesto, Mario. Io sì, perché io. E mia moglie è dovuta partire e ho dovuto badare io ai bambini, quindi mia moglie, il terzo figlio, non sa se farlo. Ce ne vogliono campagne del ministro per fare il terzo figlio. Piuttosto il ministro dovrebbe dire: la moglie va a lavorare a 1500 chilometri di casa, però gli dà l'asilo nido, gli dà l'assistenza. Questi sono i suoi figli, Mario? Questi che urlano? Questi sono i suoi figli che per adesso sono qua in vacanza con me. Fra cinque giorni non vedranno più la mamma per due o tre mesi. Dove insegna sua moglie, Mario? Mia moglie insegna a Como, in provincia di Como. Quindi cioè il posto più lontano che si poteva immaginare quasi. Il posto più lontano, e tra l'altro le dico un'altra cosa. Sì. Con i trasferimenti hanno fatto ancora molti errori, e mia moglie, che doveva essere avvicinata in un posto più vicino, l'hanno mandata ancora più lontano di dove era l'anno scorso. Quindi non solo una legge fatta male, ma poi è stata applicata completamente con dei sistemi informatici che hanno fatto un casino di errori. Se parlate con i sindacati, adesso ci sono degli insegnanti che questa questione delle graduatorie è sempre molto complicata. Non sanno in quale scuola devono andare a prendere servizio domani. Va bene, Mario, stiamo grazie, perfetto, buona serata. Di un ministro che si dovrebbe solo dimettere dei casini che ha fatto, non solo per le donne, ma in generale. Va bene, Mario, grazie, buona serata. Questa è la situazione del marito della moglie insegnante trasferita a Como, avete sentito? La questione però è più generale, riguarda la campagna sulla fertilità lanciata dal ministro Lorenzin, che ha ricevuto per ora più che altro critiche, almeno sui social network. Il giorno stabilito è il 22 di settembre. 800 24 00 24, vi aspettiamo dopo la borsa. Si può fare. Cronache da un paese migliore. 18:33 minuti, ben ritrovati da Alessio Maurizio, ascoltatori. Allora, al 349-238-6666 un po' di messaggi, leggiamoli, va, perché sia sul Fertility Day si sono scatenati gli ascoltatori. C'è per esempio chi ironizza: tutti a defecare, la dico bene, davanti a casa del ministro Lorenzin, così concimiamo. Devo dire che la parola fertility day, si presta a questo genere di interpretazioni, e non è un caso isolato questo. Oppure ancora, aspetta che arrivo perché bisogna scorrere, dov'era quello sulla chalet in legno, a proposito del bar di Grisciano, li fanno in alta montagna. Ma è possibile che non si capisca che non è necessario avere cemento dappertutto, dice Roberto da Belluno. Probabilmente lì a Belluno di case in legno ce ne sono parecchie, ma ben vengano, ha ragione. Bisognerebbe capirlo che è un tipo di edilizia leggera che andrebbe super incentivato, resiste a tutti i tipi di scosse sismiche. Ne volevo leggere un altro ma non lo trovo. Vabbè, andiamo allora con gli ascoltatori, lo cerco. Intanto Enrico dalla provincia di Alessandria, buonasera. Buonasera. Prego. La ringrazio per lo spazio. Volevo intervenire in merito al fatto delle tendopoli e quante altre cose si possono fare. Le casette in legno, io ne ho una e funziona benissimo. Per quanto riguarda invece la povera gente che purtroppo ha subito il terremoto senza casa, senza più niente, non potremmo spostarle in qualche paese, qualche città vicina, negli alberghi, e togliere i 38 euro al giorno agli extracomunitari che sono arrivati, mettendoli non più su dei barconi ma su barche normali, mandarle a casa loro e dare i posti ai nostri italiani? Domanda. Ma la sua risposta qual è a questa domanda? Che io trovo una domanda inutile, irragionevole. Inutile e irragionevole. Allora continuiamo a mantenere. Cioè, nei sa quanti confronti si potrebbero fare? Si potrebbero fare tanti confronti. Gli italiani mettiamoli nelle tende. Non possiamo mettere i nostri italiani nelle tende. Hanno subito un disastro i nostri italiani. Questi poverini, pazienza. Guardi, io non lo so. Non lo so di quali alberghi parlate voi, che parlate degli immigrati negli alberghi. Però ma basta andare. Mi faccia vicino a dove abito io. Ci sono 5 motel pieni. E 2 pensioni piene di extracomunitari, dove i nostri italiani non ci sono e avrebbero bisogno molto più i nostri italiani rispetto a loro. Intanto lei sa meglio di me, che tutte le volte che c'è un terremoto gli alberghi si mobilitano e ospitano. Primo. Secondo, se viene a Milano in zona stazione centrale e vede quanti profughi accampati o immigrati ci sono, così come a Roma ed o a Via normale. Cupa in mezzo alle tende, no, non è normale. Però ecco, se ci fosse tutta questa offerta di alberghi per i profughi, non so se ci sarebbe gente accampata in mezzo alle strade. Quindi Non lo so. Ci sono, ci rimangono, ci vogliono stare, sì, o ce li lasciamo? Non lo so, è lei quello che ha delle certezze, io non ho certezze. No, io non ho certezze di nessun genere, di nessun tipo, io vedo soltanto quello che è intorno a me. Vabbè. Le realtà che ho intorno, io vedo quelle e non mi piacciono, sono assurde. Cioè lei pensa che si potrebbe risolvere la questione dei terremotati togliendo risolve, i 38 euro ai profughi e dando i 38 dando euro? Mano, dando una mano a loro. Ma dando una mano si può fare in tanti modi, no? E quindi lei ha fatto questo non confronto. Sicuramente con le tende, no? Non sicuramente con le tende, sì, non sicuramente con le tendopoli, ma assolutamente, ma sono cose che non stanno né in cielo né in terra. Ma assolutamente. Per esempio con le casette dell'Expo, come dice Maroni? Le casette dell'Expo non lo so, io pensavo le casette, lei trasferirebbe che lei trasferirebbe a Rho in provincia di Milano i terremotati di Amatrice? No. Io farei quello che avete detto l'altro ieri con quelle casette che ne parlavano, sì, di legno, quelle sì, assolutamente, quelle sì. No, sicuramente spostarli in massa così è una cosa impensabile, ma non è... Qui è un'altra stupidaggine grossa quanto una casa, che ha detto Maroni, secondo me. Va bene, anche secondo me, grazie Enrico, buona serata, grazie. Filippo da Milano, prego. Sì, buonasera. Allora, io volevo dire una cosa molto semplice, che è vero tutte le polemiche, è vero tutto quello e ci sta. Però la cosa drammatica è che in questi drammi di terremoto vengano giù le strutture di soccorso, cioè gli ospedali. Gli ospedali dovrebbero essere costruiti a norma, ma non a norma di legge, ma proprio in modo che non venisse giù niente. Perché se vengono giù gli ospedali in una zona come quella... O le scuole, o le scuole, per 50 chilometri ci sono solo due ospedali, hai voglia a fare i soccorsi, i campi avanzati e tutto. Allora, io ho fatto il volontario per 118 per 20 anni e a un certo punto c'è un limite agli ospedali da campo, bisogna portare le persone in strutture attrezzate, e se lì le strutture attrezzate non ci sono, lì come tanti altissimi altri posti d'Italia, cioè, perché con questi tagli, sì, no, ma Filippo, che dire, è verissimo, cioè, fra l'altro, insomma, mentre obbligare i privati a ristrutturare le case, a fare degli adeguamenti sismici, abbiamo scoperto che non è una cosa semplice, nemmeno dal punto di vista di principio. Lo Stato si dovrebbe auto-obbligare da solo, punto. E la questione sarebbe finita lì, sarebbe molto facile. Massimo da Firenze, buonasera. Sì, buonasera. Volevo intervenire per quanto riguarda Esperti Day. Sì. Perché essere genitori, io ho 42 anni e due figli, l'esperienza il contributo l'ha dato. Che uno possa fare, sì. No, il contributo l'avremmo voluto dare ancora di più facendo il terzo, ma la domanda è questa: ma a parte il poco gusto nel fare una campagna laddove viene rappresentata una donna e gli verrà mentato così una sorta di data di scadenza, sì, sì, c'è la clessidra in mano, non è abbastanza indelicato, soprattutto visto una donna, cioè non capisco proprio come possano pensare a una campagna in questa maniera. Ma soprattutto il mio intervento era: si rende conto lo Stato italiano, che si parla tanto di Europa, rispetto all'Europa a noi genitori da parte dello Stato non viene dato niente? Mia sorella vive a Bruxelles, per il primo figlio gli davano 350 euro al mese, senza considerare tutti i rimborsi totali, non del 20% delle spese sostenute che ci rendono noi dell'IRPEF, ma totali delle scuole che le davano, quindi pagamento di libri, pagamento delle scuole, pagamento dell'asilo nido, viene rimborsato tutto in alcuni stati esteri. Come si fa a diventare genitori in Italia con degli stipendi da fame e io non mi posso lamentare del mio, mentre invece in Europa... per i figli viene dato tanto da parte dello Stato. Ci credo le famiglie estere hanno 3-4 figli per uno. Questa era la mia osservazione. Sì, sì, ma era chiaro che una campagna come quella del ministro Lorenzin sul Fertility Day avrebbe sollevato un vespaio di polemiche, perché i limiti, lo sappiamo tutti, no? Quali sono gli asili, le donne che perdono posto e sono incinta, la disoccupazione giovanile, quindi è difficile trovare un argomento a favore di questa campagna, lo dico proprio così. È impossibile, a noi, tra me e mia l'intenzione è sicuramente positiva, la potranno condividere credo l'80% delle persone, ma è ridicolo il fatto che venga dal governo, dallo Stato, che non crea le condizioni per, come stava dicendo giustamente lei, era abbastanza scontato che avrebbe sollevato queste critiche. Comunque ce ne sono di belle, adesso poi continuiamo a leggere i messaggi, tra poco sul Fertility Day. 800 24 00 24. Freedom. I won't let you down. Freedom. I won't let you down. con noi Flavio Caroli, critico d'arte, buonasera. Buonasera, storico dell'arte, gentilmente. Storico dell'arte, vabbè, mi hanno scritto male. Senta, Caroli, allora, gira e rigira, guarda caso, sempre di donne parliamo, perché parliamo di fertilità e parliamo di donne. Parliamo, in questo caso, del seno nudo di Marianne, il simbolo della Repubblica Francese, inneggiato dal primo ministro Valls, francese, che ha detto questa è la Francia, il seno nudo, quindi è giusta la nostra, il seno nudo di Marianne, simbolo nel quadro della Croix della Repubblica Francese, quindi è giusto la nostra campagna contro il Burkini. Ora, al di là del giudizio sul Burkini, anche suo estetico, magari se vuole ben volentieri, ma stiamo a questo simbolo, no? Che tutti hanno in mente. Che cosa rappresenta questo quadro della Croix con questa donna che ha svestita, ma che sta combattendo per la libertà? Rappresenta appunto l'avvento della libertà, e tenga conto che oltretutto Della Croix, che è il grande pittore che ha dipinto questa immagine, non è mai stato particolarmente rivoluzionario in vita sua, tant'è che nel 48, che grosso modo corrisponde a quello che è stato il nostro 68, lui si è molto irritato, ecco, con i rivoluzionari, perché scompigliavano il mondo, scompigliavano il suo studio, insomma la sua idea dell'arte. Questo comunque rappresenta quanto al seno nudo, alla libertà, ma sa, questo è molto semplice, è inutile che la facciamo tanto lunga. Sì. Questo è l'eredità classica. Noi nel mondo contemporaneamente, a un certo punto nacquero contemporaneamente Buddha da una parte del mondo e Socrate da noi, e Socrate è il padre della nostra civiltà. Da Socrate deriva la cultura greca, da Socrate deriva l'idea del corpo che maturò in Grecia e che si manifestò proprio nella grandissima scultura del V secolo avanti Cristo. Insomma, nacque una certa idea dell'uomo che è proprio legata alla bellezza e in particolare alla bellezza del corpo. Quella è una radice che noi non ci siamo più voluti scrollare di dosso, che è passata poi al mondo romano, che è passata, come si dice, attraverso il Medioevo, che è stata interamente reinventata. Sì. Da Firenze nel 400, voglio dire, il grande. Quindi è vero, cioè lei conferma che anche dal punto di vista della storia dell'arte, l'esposizione di un corpo nudo, in questo caso, è un simbolo proprio. Però è vero che ci sono stati momenti in cui si è oscurato, si è occuperto, si è nel Medioevo, nelle chiese. Brevi, ma nel Medioevo, sì, il Medioevo, infatti, non per nulla si dice, è stato molto meno oscuro di quel che sembri, ma lasciamo perdere. No, soprattutto c'è stato il momento della controriforma, cioè fine 500, primi 600, lì è il momento in cui si sono messe le braghe a Michelangelo, no? tanto per capirci, ma è un momento limitato, ecco, è un momento proprio limitato, tant'è vero che poi nel 600 torna un'idea classica, pagana addirittura, con Annibale Carracci, con Guido Reni. Lei guardi, sì. Vada andiamo a vedere la Galleria Farnese, che è dei primissimi anni del 600, il Palazzo Farnese, appunto, che è l'ambasciata di Francia, lì c'è il trionfo di Bacco a Roma, naturalmente, il trionfo di Bacco Arianna, che è un trionfo appunto della nudità, della paganità, ecco, della paganità e della dunque classicità. Però sempre sul quadro della Croix ha voluto dire che invece in quel caso lì quell'esposizione di quel seno non ha quel significato che noi magari gli diamo oggi, cioè di liberazione del costume, ma è una donna che è una mezza divinità, che è immortale in qualche modo, che non è toccata dal senso di morte che c'è intorno in quella battaglia, e che quindi l'uscita di Valls in realtà non c'entra il punto, no? Invece lei è... E poi comunque quel seno nudo vuol dire nutrimento, no? Dico, quante volte sono stati dipinti scene appunto di seni nudi con figure, c'è il padre, no? C'è la famosa leggenda, dipinto anche da Caravaggio, del padre che nutre la figlia, che nutre il padre proprio che è in prigione. Sono archetipi della civiltà, ma sono archetipi della nostra civiltà, non per per nulla. Lei sta citando, dice, no, stiamo pronunciando io e lei tutte parole di pagane, insomma, che derivano dal mondo classico e pagano. E dunque, ma sì, voglio dire, ci sarà un della Croix avrà voluto simboleggiare il nutrimento, eccetera, ma è pur sempre un'idea che deriva la bellezza, insomma, la bellezza della donna e della prosperità e del nutrimento e della generosità che arriva al nostro mondo. Quindi sì, probabilmente il signore di cui sopra qualche piccolo errore filologico l'ha fatto, ma però insomma, il senso, insomma, è quello, il senso è quello, il senso è quello. Perché certo, questa cosa del nudo femminile, dell'esposizione del corpo, che è, come diceva lei, un simbolo sicuramente della cultura occidentale, l'abbiamo ritrovata a volte anche nelle culture orientali, per esempio lei ci diceva prima dell'intervista in Iran, no? Nell'antica Persia. Sì. Beh, quello è il grande tema della rappresentazione nel mondo appunto non occidentale, cioè non quello che arriva da Socrate e dalla classicità. Allora sì, per esempio, sai, c'è il grande tema dell'iconoclastia. Allora, l'iconoclastia, c'è un'iconoclastia assoluta da sempre e per sempre, che è quella ebraica, che parte già dall'Esodo, che dice non rappresenterai le nuvole in cielo, gli alberi sulla terra, insomma il divieto è assoluto, che poi dopo la grande cultura ebraica l'abbia anche travisata in mondo moderno è un altro discorso. Poi c'è c'è stato il grande capitolo dell'iconoclastia bizantina, cioè Bisanzio, no? Prima che arrivasse il mondo musulmano, e poi c'è quella musulmana, e allora qui arriva. Però voglio sottolineare che nel Corano non c'è un divieto assoluto ed esplicito a rappresentare. Ecco, fermiamoci un attimo qua perché devo dare il traffico, poi torniamo tra pochissimo, intanto rilancio il numero verde 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ecco, Carole, lei ci stava dicendo che nell'Islam non c'è un divieto esplicito che derivi dal Corano a non esibire i corpi, però poi a questo si è arrivati nella cultura islamica. Non c'è divieto a rappresentare immagini, capito? Per cui tant'è vero che nel corso della storia ci sono stati grandissimi capitoli di cultura figurativa, di pittura, insomma, di pittura islamica, soprattutto per esempio nel XVII secolo, cioè nel Cinquecento, c'è un capitolo bellissimo in Persia, appunto in Iran, che però dopo qualche decennio si esaurisce. Perché si esaurisce? Ma verosimilmente proprio perché viene travolto dall'opinione popolare, capito? Cioè il divieto è poi cresciuto e si è diffuso non per scelta ideologica dei pensatori, insomma, diciamo, di quel mondo, ma per diffusione appunto popolare, la diffusione popolare che naturalmente è diventata tanto più rigida quanto più si è arrivati in società chiuse e fondamentalmente in quel senso ignoranti, capito? La rigidità fa seguito naturalmente alla progressiva chiusura dei propri orizzonti culturali, all'arroccamento, insomma. Ecco, e questo è quello che oggi è ancora una frontiera della libertà questa questione del corpo, del nudo femminile, è ancora una frontiera di libertà, secondo lei, nell'estetica contemporanea? Ecco, io eviterei di usare queste parole, è proprio questo, è il confronto di due civiltà, che sono state poi anche due grandi civiltà. Il fatto che, ieri lo diceva anche il Corriere della Sera, insomma Pare Bianco lo scriveva, ci sono cose che probabilmente non devono essere vietate se non fanno male a nessuno, ma insomma certamente vanno criticate, ecco, e lì sono due confronti, insomma, fra una civiltà che ama il corpo praticamente nudo, come abbiamo visto, no? Quelle che giocano volley sulle spiagge alle Olimpiadi, beach e invece volley, civiltà volley. Che va beach volley appunto, e le altre civiltà che invece il corpo non lo vogliono mostrare. È dal confronto fra le due è quello che prevarrà, insomma, su, no? Su questa palla che definiamo terra, che prima o poi deciderà quale sarà il modello che prevale, insomma. Ma tutti noi siamo affezionati a noi occidentali, sì, ripugna l'idea di costrizione, evidentemente, esatto, anche perché la bellezza la amiamo dal profondo, ci arriva proprio con i nostri cromosomi stessi, ecco. Ma quello che tutti si domandano: si può imporre la libertà con un divieto, cioè con una costrizione di un'altra libertà? Qual è il suo punto di vista? Ecco, quello che dico, che appunto l'articolo di ieri di Pane Bianco mi sembrava sostanzialmente giusto. Ci sono cose che vanno vietate, appunto, per esempio il burka, insomma la mascheratura totale, perché prima di tutto segnala il fatto che l'individuo, capito? Noi, la nostra civiltà occidentale è fondata sull'individuo, noi crediamo da sempre nell'individuo, come ha detto Socrate. Allora, se invece dell'individuo noi crediamo in una specie di mascheratura che nega l'individuo e l'importanza dell'individuo, tant'è che lo si nasconde, e qui questo va vietato, dove vige la nostra civiltà. Laddove invece ci siano delle cose che non ci piacciono, e però insomma in fondo se quelli si mettono le mutande per fare il bagno o solo andare in spiaggia con una tenda sopra il capo, fa quello che gli pare, ecco, appunto, voglio dire, non fanno male a nessuno, certamente non dobbiamo rinunciare a manifestare il nostro non gradimento, per così via, cosa che loro saranno le prime a recepire, sono sicuramente le prime a recepire, e teoricamente tutto questo dovrebbe nel tempo e con l'abitudine far sì che decadano appunto i mutandoni per fare il bagno in mare, insomma, come sono che decaduti da noi. Mia nonna lo faceva ancora con i mutandoni, ecco. È vero, bisogna avere anche un po' di memoria, di ironia, di leggerezza e di capire le situazioni, perché poi le guerre si devono fare, cioè, voglio dire, ci sono battaglie che vanno assolutamente fatte, questa non la riterrei una priorità. Poi sa, d'altronde, guardi, siamo ad agosto, tutti gli anni qualche scaramuccia su cose secondarie ad agosto succede, quest'anno ci è toccata. Burkini, grazie Caroli, buona serata, grazie per essere stato con noi. Allora ascoltatori, riprendiamo con Gaetano dalla provincia di Padova, buonasera. Buonasera a voi. Prego. Intanto vi faccio i complimenti della trasmissione, credo che fare un intervento dopo quello che ho appena ascoltato è molto difficile, ecco, non ho certo il livello di conoscenza. Teme il confronto, vabbè, ma ognuno nel suo ambito, ognuno con le sue parole, tranquillo Gaetano. Allora, io volevo fare un'osservazione di questo tipo per quanto riguarda questa campagna del ministro Lorenzin, no? Cioè, presumo che sia stata fatta un'analisi prima di partire con una campagna di questo da ridere tipo, perché, no, credo. Perché il suo presupposto potrebbe essere sbagliato. Un po' osé, potrebbe essere però un po'. Io credo, cioè, sono in buona fede, per cui voglio pensare che quando sicuramente mio rappresentante, ecco, allora quindi sembrerebbe quasi che la finalità sia quella di ricordare le donne che gli anni passano, per cui si corre il rischio di avere una minore fertilità, ma è effettivamente questo il problema per cui si fanno sempre meno figli e magari in età avanzata? Guardi, io le poche persone con cui ho parlato recentemente di questo argomento sono persone che stanno cercando di avere figli e non ci riescono, per esempio, per questioni anche naturali. E quindi di fronte a questo, questa campagna la trovo totalmente scentrata, proprio totalmente sbagliata. Guardi, ho 57 anni, ho 3 figli, uno di 22, uno di 17 e uno di 12. Ecco, io credo che la motivazione che porta una persona a avere figli, soprattutto quando parliamo di chi ha già un figlio e magari pensa di fargli il secondo o il terzo, no? Debba essere una motivazione sia personale, ma anche deve avere una certa tranquillità da un punto di vista psicologico, perché in un contesto generale come quello che stiamo attraversando, l'idea di mettere al mondo dei figli senza tante, diciamo, certezze è un'idea che non è facilmente affrontabile, no? E quindi io credo che dovremmo creare un sistema Italia per cui le famiglie che decidono di allargarsi, no? Visto che parliamo di famiglie allargate, no? Abbiano magari qualche agevolazione in più rispetto a quella che siamo sempre alle solite, è vero, è verissimo, è questo il punto. Perché io posso anche avere due figlie, ma se voglio avere un terzo e poi tutti gli anni mi devo pagare l'asilo, oppure devo rinunciare al lavoro, comprare ogni anno 200-300 euro di libri, non parliamo poi se devo mandare all'università, se poi gli faccio fare un'attività sportiva di qualunque tipo ci sono dei costi. Devo chiudere, devo chiudere, grazie Gaetano, buona serata, dobbiamo chiudere, grazie, a dopo ascoltatori, ci risentiamo dopo il giornale radio, tra poco. Dalla Brexit all'immigrazione dall'Europa alla Cina, dall'Iraq a Molenbeek, tutti i temi più caldi dell'estate in un'ora di grande attualità internazionale. E poi le analisi e i racconti dei grandi eventi del nostro tempo. Risorse e materie prime, ambiente, cultura, letteratura, religione, al di là degli stereotipi e senza censure. Voi andate pure in vacanza, il mondo ve lo raccontiamo noi. Sono Giampaolo Musumeci, anche quest'anno, zaino in spalla, ho viaggiato e indagato storie e fenomeni. Ora riaccendo il microfono per raccontarveli. Se anche voi pensate che nessun luogo è lontano, vi aspetto tutti i giorni alle 16 qui su Radio 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Marianne, le symbole de la République, elle a le sein nu parce qu'elle nourrit le peuple, elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République, c'est ça Marianne, c'est ça ce que nous devons nous toujours porter. 19:16 minuti, ben ritrovati ascoltatori, buonasera da Alessio Maurizi, 800 24 00 24. Queste erano le parole del primo ministro francese Valls, che ha esaltato Marianne, il suo seno nudo, simbolo della Repubblica Francese e della libertà francese, ribadendo quindi la scelta della Francia di andare avanti sulla questione del Burkini nonostante le sentenze della corte francese, che ha bloccato le ordinanze delle città che l'avevano imposto il divieto di Burkini, nonostante le Nazioni Unite, l'Alto Commissariato dei Diritti Umani, che ieri ha bacchettato la Francia per questa decisione. 800 24 00 24. Dove andiamo? Andiamo con Salvini, sentiamo la teoria finale di Salvini sugli ultimi sbarchi che sono arrivati in Italia. Invasione, pulizia etnica, ormai è chiaro che è finanziata, è voluta, è organizzata, a qualcuno servono schiavi a 3 euro all'ora, che si sostituiscano agli italiani e ai siciliani che sono costretti a scappare in giro per il mondo per lavorare. Come Lega faremo tutto quello che è umanamente possibile per bloccare questo genocidio, in corso un tentativo di genocidio. Io ho allargato le braccia perché... Caro Salvini, ma come si fa? Va bene, è possibile che qualcuno stia speculando sull'immigrazione e sulla manodopera a basso costo, ma che tutto questo sia finanziato. È un Salvini complottista, è in atto un genocidio, lo risentiamo perché cioè, dire che Salvini ha detto delle cose forti è quasi impossibile perché le dice sempre, però stavolta sentite un po'. Invasione, pulizia etnica, ormai è chiaro che è finanziata, è voluta, è organizzata, a qualcuno servono schiavi a 3 euro all'ora, che si sostituiscano agli italiani e ai siciliani che sono costretti a scappare in giro per il mondo per lavorare. Come Lega faremo tutto quello che è umanamente possibile per bloccare questo genocidio, in corso un tentativo di genocidio. E questo succede a dover ogni volta superare se stesso, l'asticella che si alza sempre di più nel dichiarazionismo. Salvini. 800 24 00 24. Non esiste un partito del no, come non esiste neanche un partito del sì. Cioè, esiste il sì e il no. Io trovo sbagliato avere spaccato in due il paese sulla Costituzione, che dovrebbe essere condivisa, nel senso che la legge fondamentale dello Stato è condivisa. C'è un grande spazio per il no fra i cittadini italiani. Ce n'è di meno nell'informazione, che è largamente controllata anche dopo l'occupazione brutale della RAI fatta da parte del governo, la cacciata dei dissidenti, cosa che francamente mi ha veramente colpito, perché solo Berlusconi è arrivato a tanto. Buonasera Dario Nardella, sindaco di Firenze, buonasera. Buonasera a lei e ai radioascoltatori. Ha sentito da lei, ma siamo alla cacciata dei dissidenti dalla RAI, l'occupazione brutale della RAI sottinteso da parte di Renzi? Sì, l'ho sentito, ma io non vedo nessun tipo di occupazione della RAI, vedo dei professionisti che cambiano. E poi le posso dire una cosa, non c'è stata mai volta in Italia in cui si sono fatte le nomine alla RAI senza che ci fossero le solite polemiche. Cioè, stupisce che le faccia da lei, ma... No, però fa un po' specie che sia... Vabbè, ormai non è più una notizia da tanto tempo, è in rotta di collisione da Lema con Renzi, da sempre, da prima che nascesse Renzi, forse. però siamo arrivati a un punto... Ma intanto, D'Alema, cosa rappresenta oggi nel PD D'Alema? Beh, le posso dire una cosa? Io conosco D'Alema e lo stimo personalmente. Ma il punto è che D'Alema e la sua generazione politica ha fallito e non hanno il coraggio di dirlo. Quindi se io guardo alla storia del mio partito, rappresentano il fallimento. Ma nel non avere il coraggio di dirlo aggiungono un'altra cosa drammatica, e cioè che invece di aiutare le nuove generazioni a fare quello che loro non sono riusciti a fare, si abbandonano in ripicche, in acredine personale, pur di mettere i bastoni tra le ruote a chi oggi ha la responsabilità di guidare il Partito Democratico. La generazione politica dei miei padri dovrebbe aiutare i figli, non fare di tutto per bloccarli. Sì, poi c'è anche una questione dei contenuti sulla riforma costituzionale, si può essere per il sì, si può essere per il no, la minoranza del suo partito si sta schierando per il no, insomma sostanzialmente. Magari non tutti, però qui questo è un altro discorso. Hanno votato tutti per il sì, i parlamentari della minoranza, è questo che è un po' contraddittorio e incoerente. E poi nel merito, come si può essere contrari al fatto che si eliminano 315 senatori con tanto di indennità? Come si può essere contrari al fatto che finalmente si eliminano dalla Costituzione, ad esempio, le province di cui si parla da un sacco di tempo? O con il fatto che si mette un tetto agli stipendi dei consiglieri regionali, non se ne parla mai, e poi anche con il fatto che finalmente si chiariscono un po' le competenze tra Stato e Regioni, che hanno passato questi ultimi 15 anni a litigare continuamente. Come si può? Se entriamo nel merito, è difficile davvero dire che questa riforma costituzionale non va bene. Senta, però lasciamoci il referendum alle spalle o lasciamocelo davanti, tanto avremo mesi per parlarne sicuramente, avremo anni forse per parlare anche delle Olimpiadi, però adesso è d'attualità la candidatura, se Roma dovesse mollare, di Firenze. Lo ha detto un esponente del Consiglio... Presidente. Siete davvero pronti a raccogliere questa eredità, qualora Roma dovesse mollare il colpo? Guarda, Firenze ha un'esperienza di impianti sportivi straordinaria, noi abbiamo ospitato i mondiali di ciclismo nel 2013 con un bel successo, e quindi anzi già siamo coinvolti nella candidatura di Roma al 2024 per ospitare alcune manifestazioni. Il punto è che non ci sono alternative, ci spiega il presidente del CONI, alla candidatura di Roma per il 2024. Ma insomma sembra abbastanza evidente a tutti, perché pensi quanto potrebbe essere attaccabile questa candidatura in sede di Comitato Internazionale Olimpico, quando è cambiata in corsa perché la città non l'ha voluta, sarebbe una cosa... Non è formalmente possibile, però va detto che se dovesse... Io mi auguro che Roma 2024 vada in porto, sgombriamo subito il campo, cioè che l'Italia possa avere le Olimpiadi. Se poi dovesse fallire, non per il 2024, ma per edizioni successive, nulla può impedire che Firenze possa valutare una sua candidatura. magari che vada in porto, però con tutte le accortezze del caso, l'attenzione. Bravo. A non spendere come è successo in passato, si può usare anche il verbo sputtanare, mi scusi, perché io qui davanti a me le cifre di quanto sono costate le Olimpiadi nel passato, e Pechino, la Cina è arrivata a spendere 43 credo miliardi, ma sì, perché l'Olimpiade più cara della sì, storia, hanno un budget diciamo, diverso, hanno delle disponibilità diverse dalle nostre, e non so qual è il bilancio che fanno adesso, ma quindi un'Olimpiade però fatta con questo criterio, e su questa ipotesi forse sembra che il Movimento 5 Stelle di Roma potrebbe anche aprire. Ha notizie di questo? Non ho notizie, però non mi stupirebbe, perché io trovo stupida la posizione di chi dice che le Olimpiadi di per sé sono una iattura e non si possono organizzare. Ed è dimostrabile la stupidità di questa posizione, perché il punto non è che le Olimpiadi vadano bene o no, ma è su come si organizzano. Noi abbiamo due esempi che sono agli antipodi. Le Olimpiadi di Atene, che sono state un disastro, che poi, come tutti gli economisti e analisti hanno riconosciuto, purtroppo ha costituito l'inizio della crisi economica greca, sì. E le Olimpiadi di Londra, che invece sono state un grande successo. È vero, mi pare siano costate 13 miliardi di sterline, non è una cifra neanche paragonabile a quella di Pechino, molto più costosa, ma pensiamo a cosa hanno portato le Olimpiadi di Londra in termini di sviluppo della città, di riqualificazione urbana. Oggi Londra è diventata una delle capitali mondiali più interessanti e più dinamiche. Quindi la questione non è fare o no le Olimpiadi. Io sì. Credo che l'Italia non possa scappare da questa opportunità. Sa cos'è? Sì, è che proprio, per esempio, anche quello che leggiamo sui giornali in questi giorni, dopo il terremoto del Lazio, sulla ricostruzione fatta dopo il terremoto del 97 in Umbria, i soldi che non sono stati spesi, sono stati spesi male, i cantieri addirittura sbagliati. C'è una sfiducia comprensibile da parte degli elettori, dei cittadini, su quanto la classe politica riesca poi a gestire questi grandi eventi. Questo mi sembra che però sia indiscutibile al momento. Beh, le posso dar ragione, anche se, come ricordavo, a Firenze ad esempio noi abbiamo organizzato i mondiali di ciclismo, che non sono certo facili perché sono su strada, abbiamo coinvolto 40 km di strada solo in città, senza che ci sia stato uno scandalo, non ci sia stato un ladro che abbia rubato un euro. Abbiamo fatto tutto in modo trasparente, senza polemiche, e abbiamo realizzato tutto quello che c'era da realizzare. Quindi ci sono esperienze che sono andate certamente malissimo, ma esperienze che sono andate bene, sì. E questo credo valga anche per la ricostruzione del terremoto. Non dobbiamo fare in questo caso di tutta un'erba un fascio, con giudizi sommari che tra l'altro non ci permettono neanche di fare i passi in avanti. Senta, ma alla fine sto McDonald's in Piazza Duomo a Firenze lo fate o non lo fate? Perché ci siamo lasciati prima della pausa estiva con la commissione dovrà valutare, il sindaco e la giunta sono tendenzialmente contrari, però lei disse non sono io a dover prendere questa decisione. Come va a finire? Dal punto di vista tecnico la commissione alla fine ha dato un parere contrario, e io sono ovviamente contento che la commissione tecnica abbia dato questo parere. Lo avevo detto fin dall'inizio che ero contrario al McDonald's in Piazza del Duomo, ma non perché sia ideologicamente diciamo ostile, anzi noi abbiamo tanti negozi McDonald's a Firenze, ma perché noi dobbiamo riprendere in mano il tema della qualità dei centri storici delle nostre città, che stanno perdendo l'anima, e questo anche attraverso un snaturamento del tessuto commerciale. Per questo credo che alla fine, dopo questo passaggio, il McDonald's non si farà, ma mi creda, è stata una battaglia per la quale io credo di aver interpretato il sentimento di tantissimi cittadini che hanno a cuore il futuro dei nostri centri storici e la possibilità di tutelare le tradizioni che non siano soltanto asservite alle regole del mercato di massa o del turismo di massa. Quindi il McDonald's avrebbe invece contribuito, secondo lei, ad accentuare questo degrado? Beh, insomma, avere un centro storico pieno di ristoranti, di fast food, di negozi dove si vendono magliette da calcio, dall'inizio alla fine non credo che sia un modo per tutelare l'identità di una città. Noi siamo stati anche molto criticati perché io ho approvato prima in Italia un regolamento per l'area UNESCO, appunto al centro di Firenze, dove si tutela anche la qualità del cibo, stabilendo che i ristoranti devono avere almeno la metà di di alimenti del Made in Italy o della filiera corta. Mi hanno dato di tutto, di leghista, ora questa sarebbe un'offesa davvero insopportabile, ecco, ma di sciovinista. In realtà penso che i cittadini sempre di più vogliano recuperare l'identità senza essere considerati dei conservatori, perché una cosa è fare i conservatori o i leghisti e quindi essere razzisti verso chi è diverso, altro sì, però, è tutelare la memoria e l'identità. Però chi decide che cosa è rispetto della tradizione, che cosa è qualità del cibo, per esempio in una città, un centro storico come quello di Firenze, patrimonio UNESCO, e chi cosa invece non ne fa parte? Cos'è una commissione di tecnici, di burocrati? Beh, come funziona? I politici? Bisogna affidarsi anche ai tecnici in modo molto snello. Il punto è che oggi c'è una deregulation totale. Dopo le liberalizzazioni del governo Monti, praticamente può aprire qualunque negozio di qualunque genere in ogni parte d'Italia. Possiamo avere 27 lavanderie in fila in una strada e nessun sindaco può dire nulla. Nel caso dei centri storici noi abbiamo provato a forzare un po', ora speriamo che nessuno ci faccia ricorso, o se ci faranno ricorso di poter difendere, perché abbiamo considerato il commercio non un territorio di deregulation per via della libertà d'impresa, ma un territorio dove nel caso dei centri storici c'è da tutelare un patrimonio artistico e culturale, cioè l'artigiano, il ristorante di tradizione, fanno o non fanno parte di un patrimonio culturale storico? Secondo noi sì. È ovvio che questa valutazione poi ci dovrà essere data da alcuni tecnici competenti sulla base di indirizzi che i politici si assumono la responsabilità di dare. E ci sono dei cambiamenti già visibili a Firenze da questo punto di vista, o è troppo presto? Forse è ancora presto, però le posso dire che già il fatto che non hanno aperto fast food ormai negli ultimi 2 anni nel centro storico di Firenze è qualcosa. Stiamo inoltre mettendo in campo anche misure di supporto, non solo divieti, perché non è che si possono solo vietare attività. Ad esempio, per il prossimo bilancio vorremmo abbattere l'IMU a tutti quei negozi di artigiani, di commercianti di tradizione che altrimenti, soffocati dalla rendita, soffocati da affitti sempre più alti, non ce la farebbero, davvero. E va bene, sarebbe una bella misura. Grazie, buona serata Nardella. Grazie per essere stato con noi. E a tutti i radioascoltatori. A presto. Borsa, torniamo tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ben ritrovati da Alessio Maurizio, ascoltatori 800 24 00 24. Allora, un po' di messaggi pure che arrivano all'SMS al 314 238 6666. Perché incentivate chiacchiere di aria fritta? Nessun'altra città può candidarsi. Punto. A proposito delle Olimpiadi, ma in effetti lo facciamo perché sono arrivate delle proposte dal presidente della Lombardia, per esempio, dal presidente del consiglio comunale di Firenze. Però Nardella l'ha detto chiaramente: noi saremmo pronti, ma è un'ipotesi impraticabile quella di candidare Firenze al posto di Roma per le Olimpiadi. Fernando da Ferrara, buonasera. Buonasera, Maurizi. Eccoci. Sono un anziano farmacista in pensione. Sì. Ho lavorato nella sanità proprio davanti al pubblico. La mia vita è stata quella lì, di vedere la gente venire in farmacia con tutti i loro problemi. E devo dire che questa minestra Lorenzin è una gallina ovaiola. Rappresenta benissimo il partito a cui appartiene. Vedi il suo capo e vedi quello che ha fatto il suo capo. Cosa vuol dire una gallina ovaiola? Una gallina ovaiola da noi vuol dire che è una gallina ovaiola che fa le uova e basta. Ecco. È un'allegra gallina ovaiola. Se tutti fossero nella sua produce solo uova, ma non produce idee, non produce cose positive. No, è proprio una gallina ovaiola. Basta. Più di tanto non può fare costituzionalmente per la cultura o scultura. Ecco, voglio dire che io ho lavorato. Ce l'ha con 40 la Fertility Day, ce l'ha lei? No, io non ce l'ho. Anzi, devo dire la verità che quando vado all'estero in giro e vedo queste famiglie tedesche, francesi, belghe e inglesi che hanno figli, ecco, mi sento molto in imbarazzo. perché è facile parlare di fecondità e tutte quelle palle lì quando sei ministro, hai tutti i sottocoda che a ogni tuo sternuto arrivano alla gente normale che prende 1200 euro al mese quando gli va bene. Gli ha tagliato questa qui, ma sì, gli, ma certo. gli esami, degli esami vitali che servono alla gente per prevenire o per curare malattie vitali, gliela tagliate e gli fa fare ogni 5 anni. Allora che cacchio vai a parlare di giornata della fecondità? Ma sì, ma qui la fertilità, c'è una questione culturale che riguarda però tutta l'Europa, tutto l'Occidente, le donne fanno figli più tardi, in età sta cambiando l'equilibrio, è una moda, è un modo di vivere e questo non ci fa niente, non c'è niente da fare, non è detto neanche che è una cosa che vada ostacolata, osteggiata. Il discorso della fertilità da questo punto di vista lascia il tempo che trova. Poi c'è un discorso che in Italia non ci sono politiche per i figli, per le famiglie, e hai voglia a fare Fertility Day. Era ovvio che questa iniziativa avrebbe sollevato una serie di reazioni. Voglio dire, se a fine serata, ma anche domani, troviamo uno di ascoltatori che è favorevole, fatti avanti, ascoltatore unico, che sei d'accordo con questa iniziativa del ministro Lorenzin sul Fertility Day, perché abbiamo bisogno di te. Massimo d'Ancona. Sì, Massimo, buonasera. Sì, buonasera, chiamo d'Ancona. Il mio intervento era riguardo la ricostruzione dei luoghi terremotati. Sì. Ho sentito che vogliono fare dei moduli abitativi a un costo da 40 metri in su, a secondo delle esigenze delle famiglie, a un costo di 1.400-1.500 euro al metro quadrato. Io dico, non è possibile fare subito, ricostruire com'era con gli stessi moduli, ripercorrendo il modello architettonico che era già esistente, o in legno o in acciaio, come sono nuove tecnologie, senza sprecare i soldi due volte, perché adesso facciamo i primi moduli, poi li buttiamo via. Sì, e Massimo, poi rifacciamo. Sì, ho capito cosa dici, però tieni conto che nel tempo in cui progetti e realizzi queste costruzioni, dove le metti le persone? E passano. Comunque ci vogliono del tempo. Ci vuole del tempo per fare quella da 40 metri, non penso che siano già pronte. Ma no, però per mettere su delle casette di legno, come è stato fatto a Onna, per esempio, nel terremoto dell'Aquila, che sembra il modello scelto, poi non sarà così, ma si è fatto riferimento a quello, non ci vuole tanto tempo. Questione di qualche settimana, sono dei prefabbricati di legno, vengono trasportati rapidamente, costruiti, messi su, e almeno le persone hanno una casa vera per qualche anno, il tempo di ricostruirla. Questo mi sembra ragionevole. No, io l'unica cosa che dico, se fossi io terremotato e uno mi dice guarda, stai in questa casa che ti arriva fra 2-3 settimane, ci stai un anno e poi vai nella tua casa, oppure aspetti un anno e coda, un anno e coda, Massimo, perché non è un anno. Guarda, comunque io vedo dove fosse un anno avrebbe forse ragione lei, ma se sono 3 o 4 o 5 o 6 anni, rifare, io dico perché l'hanno fatto qui dove abito io. Hanno rifatto un circolo ACLI con struttura in legno e l'hanno fatto, lo stanno montando in un mese, hanno fatto il grezzo. Io penso 2-3 mesi la struttura è finita, non è che ci vogliono tantissimi. No, ma per fare i prefabbricati in legno non ci vuole molto, il problema è fare le case. Grazie Massimo, buona serata, grazie. Enzo da Bari, Enzo? Non c'è Enzo, allora Simone da Udine. Simone da Udine, ci sente? Pronto? Eccolo qua, pronto? Buonasera, sì. Buonasera, grazie per la disponibilità. Io volevo fare un intervento sul discorso del Burkini e anche su quello che ha detto lo storico d'arte di prima, che secondo me alla fine io non mi trovo contrario all'uso del Burkini nelle spiagge, ma per un discorso secondo me che finché si rispetta la libertà di scelta dell'individuo io non ci vedo il problema. Cioè, se una donna sceglie volontariamente di dire io voglio mettere il burkini perché ci credo, per cultura ed è una scelta mia, io non vedo sto polverone da dover muovere. Sì, quante donne lo scelgono liberamente, quante invece sono magari donne che fin da piccole, 8-9 anni, gli è stato imposto. Anche questo ci si potrebbe domandare. Dopodiché poi, anch'io sono d'accordo con Caroli, un conto è andare al volto scoperto, che dovrebbe essere obbligatorio per tutti, quindi burka no, un conto è se uno vuole andare in spiaggia vestito. Io potrei andare in spiaggia vestito, da capo a piedi, e non so se qualche vigile municipale di Nizza mi chiederebbe di spogliarmi perché devo stare nudo. Questo è sbagliato anche secondo me. Sì, cioè non bisogna né obbligarla né ammetterlo, ma neanche a farglielo togliere, secondo me. Poi sicuramente il discorso culturale loro è chiaramente molto diverso dal nostro, purtroppo c'è anche un discorso di volontà, di sottomissione della donna e di negazione dell'individuo della donna che è già, c'è anche quello e non bisogna dimenticarlo, però la libertà in questo caso dovrebbe essere sovrana, questo è quello che pensano in molti, ma la Francia al momento ha scelto un'altra strada. 800 24 00 24, adesso parliamo di come si mangia e con cosa si mangia nelle scuole pubbliche. In particolare nelle scuole di Milano, dove Milano Ristorazione da tempo ha adottato una politica di, come vogliamo chiamarla, Gabriella Iacono, responsabile di Milano Ristorazione. Buonasera intanto. Buonasera. Di buonasera. Sostenibilità, di risparmio, come vogliamo definirla questa politica? Di sostenibilità ambientale a tutto tondo, lì dove è possibile, in tutte le pieghe delle attività produttive di un'azienda, ritengo che un'impresa debba porsi il problema ambientale. È una cosa che si pongono in tanti, adesso va quasi di moda, ma per fortuna mi verrebbe di dire l'attenzione per non sprecare le risorse. Qualcuno adesso la chiama economia circolare, si cerca di non sprecare perché oltre che all'ambiente fa male anche alle tasche, no? Di chi gestisce queste aziende, dei contribuenti. Parliamo della plastica che veniva utilizzata nelle stoviglie, nei piatti con cui si mangia nelle scuole elementari, nelle scuole materne a Milano. Quanta plastica veniva usata, gettata e buttata via? Mettiamo in un anno, avete un dato, prima di questa rivoluzione che si sta compiendo? Sì, in un anno si buttava nella plastica, anche se è di tipo riciclabile, circa 720.000 chili all'anno di plastica. 720.000 chili sono tanti? Sono 720 tonnellate, è un quantitativo enorme per una città anche solo da smaltire. Pensiamo a come si possono intasare le discariche con colpi di questo genere. Ecco, immaginiamo di chiudere gli occhi e dire tutto questo non c'è più, perché... Tutto questo non c'è più perché già dall'inizio del 2015, quando siamo riusciti a trovare le risorse, perché il materiale compostabile biodegradabile, ahimè, costa ancora, dico ancora, perché prima costava molto di più, costa il doppio del materiale plastico. Sì, decisamente sì. Io credo che anche attraverso le politiche adottate dai comuni nell'ambito della ristorazione scolastica si possa, quindi aumentando i consumi, fare diminuire anche i costi. Cioè, siccome ne ordinate di più, chi le produce ha un mercato più ampio, potrebbe abbassare un pochino i prezzi. Io dico una cosa, per prevenire le critiche, giustamente, di chi dice, vedi, costa di più, quindi adesso poi glielo voglio chiedere se c'è un impatto anche sulle rette dei consumatori delle mense, quindi dei genitori dei bambini delle scuole. Però bisogna ricordare che per un comune c'è un costo implicito, non detto, che è smaltire dei rifiuti in discarica, per esempio, no? E quindi se io questo costo lo tolgo, lo sottraggo, è un costo in meno che va ad alleggerire invece l'altro costo, quello che avete voi di acquistare questi materiali biodegradabili. È corretto quello che ho detto? Esattamente. Noi come impresa abbiamo trovato risorse interne, nel senso abbiamo risparmiato, abbiamo evitato altri sprechi più che risparmiare, che erano presenti, diciamo, in alcuni costi dell'azienda, e una volta che abbiamo individuato le risorse, che avevamo le risorse disponibili, appunto abbiamo iniziato questo percorso che possiamo dire appunto concluso adesso con l'inizio del nuovo anno scolastico, che poi sarà a regime, insomma, a metà ottobre. Faccio un problema di produzione, però ecco, mi sento, il tema più importante è quello appunto di tutta questa plastica che viene sottratta all'ambiente, dei costi di smaltimento che sono comunque enormi. tenendo conto che questo materiale va conferito nell'umido insieme al cibo, che poi trattato diventa compost, per cui appunto ritorna nel circolo economico e produttivo. L'economia circolare, risorse. Appunto. Senta, faccio lo scettico però, no? E faccio qualche obiezione che potrebbe essere fatta o viene fatta quando si parla di queste cose. L'usa e getta alimenta l'economia, cioè si compra, si butta, si compra, si butta, si produce e si alimenta l'economia. Invece, come fate voi, l'economia si ferma. Perché? Stiamo dicendo che ritorna compost, compost ritorna alla natura. Quindi viene utilizzato poi per fertilizzare piante e ritorna in agricoltura. Quindi critica rispedita al mittente. No, capisco il concetto dell'usa e getta, non è un bel concetto. In questo caso però non è un usa e getta finalizzato a se stesso e lì rimane, è un usa e getta che viene recuperato appunto in un concetto più ampio di economia circolare, ritorna alla natura. Questi materiali sono bioplastiche, nel senso sono materiali chiamiamoli impropriamente naturali, sono fatti di mais e quindi ritornano sostanzialmente in agricoltura. Ecco, altra critica che viene fatta, però io mi sto mettendo dalla parte, come dire, faccio l'avvocato del diavolo, di chi magari non è del tutto convinto di questo tipo di cose. Allora, le stoviglie biodegradabili vengono dal mais, il mais bisogna produrlo appositamente sfruttando altre risorse naturali, quindi quanto sia ecologico rispetto a come era prima o quanto non lo sia, ce lo spieghi lei. Beh, c'è un percorso di valutazione che è quello appunto dell'LCA, il ciclo di vita del prodotto, quante sono le emissioni di CO2 in atmosfera per produrre un determinato prodotto. Sì. In questo caso le emissioni sono ovviamente ridotte, certo rispetto alla plastica sicuramente, proprio perché il prodotto poi viene... anche se riciclato non viene totalmente riciclato, o comunque per produrre un prodotto plastico riciclato bisogna aggiungere un quantitativo di plastica nuova, ecco, mi passi i termini, cioè di materia prima nuova, e quindi di fatto si rimette in circolo sempre della plastica, anche se viene riutilizzata. Arrivo in fondo, sì, prego. No, in questo caso, come dicevamo prima, sono risorse che non vengono sprecate, e già per il fatto di non essere sprecate, questo è un punto a vantaggio, direi, del prodotto. Perché finiscono nel materiale compostabile. Arrivo in fondo a queste ipotetiche critiche. In questo caso però, che vengono da chi vorrebbe una scelta ancora più ambientale, no? Tornare alle stoviglie lavabili, cioè a quelle che si usano, si lavano e si riutilizzano. È impraticabile? Sarebbe quella la scelta più ecologica? In assoluto? Questo francamente non glielo so dire, perché di fatto degli studi in proposito, proprio appunto di valutazione di tutti gli aspetti ambientali per la del sistema, io non ne conosco. Certo, anche per lavare un prodotto in ceramica, intanto deve produrre il prodotto in ceramica, bisogna poi lavarlo, si consumano dei detersivi, si consuma energia, si consuma acqua, si consumano attrezzature che comunque devono essere smaltite, l'attrezzatura, l'acciaio, insomma c'è un bilancio che non so quanto possa essere favorevole all'uno piuttosto che l'altro sistema. Io questo francamente non conosco studi ad hoc, o comunque quei pochi che ho visto non prendevano in considerazione tutto il ciclo di vita né tutti gli aspetti ambientali del processo a 360 gradi. A Milano sicuramente non è un percorso affrontabile quello di rimettere le lavastoviglie in 450 refettori, un po' per un problema di spazi che nelle scuole sono sempre più carenti, cioè le scuole hanno bisogno di spazi ma per fare didattica, per fare attività sportive. Attualmente questi spazi non ci sono, e anche l'amperaggio, l'energia che servirebbe per poter installare delle macchine lavastoviglie in grado di poter lavare tanti numeri così importanti, ricordo che sono 80.000 pasti a Milano. Il consumo energetico, certo, va bene. Quindi valutare anche il consumo energetico in acqua, ma più che altro non c'è l'amperaggio disponibile per poter installare delle lavastoviglie. Quindi a conti fatti questa è la scelta dal vostro punto di vista più ecologica. Senta, invece un altro argomento che riguarda la tendenza che si sta facendo, sta diventando un po' una moda, quella dei genitori di richiedere pasti non solo su misura per questioni giuste, anche legate ad allergie eccetera, ma addirittura portarsi il pasto da casa, ed è una frontiera, si sta discutendo. Io ho letto una notizia credo di ieri o di oggi, l'ufficio scolastico del Piemonte che ha dopo molte pressioni autorizzato per quest'anno scolastico, non so in quale scuola di ordine grado, ma insomma a portarsi il pasto cucinato da casa. A Milano come funziona? Se è la stessa notizia che ho letto io, ovviamente fa riferimento alla sentenza che riguarda esclusivamente le parti in causa, che sono l'80 dei genitori che si servono dei pasti del comune, servite dal comune di Torino, che è stata è una causa intentata contro il comune, contro il ministero, che parte da un dato molto importante, che il genitore a Torino paga il pasto 7 euro, a Milano si paga il pasto 4 euro, nel senso che oltretutto il comune di Torino sostanzialmente dà alle aziende di ristorazione, mi pare, 4,50, 4,60, ma chiede al genitore 7 euro, per cui sono presupposti completamente diversi. Il caro mensa è un argomento, che sia legittimo, che sia conveniente per un genitore, a Milano non lo è, anche per tutte le fasce di gratuità e per le diverse fasce ISE per le quali un genitore può richiedere la riduzione della retta scolastica. Ma arriva questa richiesta? Cioè lei ci conferma che arriva questa richiesta di genitori che o perché non si fidano, perché vorrebbero un pasto molto particolare? No, a Milano non ancora. C'è ovviamente il dibattito, è aperto nei vari blog dei genitori, ma ufficialmente al comune di Milano non è stata non è arrivata nessuna richiesta, e nemmeno all'istituto scolastico di questo tipo regionale. Però voi invece siete, voi sì, parte attiva nell'offrire pasti, mi ricordo se ne avevamo parlato anche la scorsa volta, pasti vegetariani, pasti vegani per chi lo chiede, pasti halal che rispettino anche la tradizione religiosa islamica, è così? Avete dei numeri? Quanti pasti particolari offrite sul totale di quelli che producete? Sono sempre più in aumento, sono ormai più di 7.000 i menù richiesti per motivazioni etico-religiose, mentre sono in diminuzione quelle sanitarie, anche perché abbiamo stretto un po' le maglie rispetto alle richieste qualche volta non proprio di tipo sanitario. Ecco. E sul fatto, per esempio, a Milano proprio è capitato, cioè, credo che sia delle ultime ore la notizia che un bambino molto piccolo, non in età da scuola materna, credo che abbia poco più di un anno, che è stato affidato ai nonni perché era malnutrito, i genitori erano vegani. Ora poi bisogna vedere caso per caso, storia per storia, prima di giudicare. Però insomma, sul fatto di attribuire un menù vegano, per esempio, a un bambino da scuola materna di 3 anni, molto piccolo, piccoli. Ci sono controindicazioni o lo fate tranquillamente? Dunque, noi tutti i menu particolari, cosiddetti speciali, vengono validati dall'ASL come contenuto. Quando abbiamo delle richieste di tipo vegano, naturalmente rientrano nell'ambito dei menu etico-religiosi. Quando si tratta di bambini così piccoli, la stessa ASL di Milano ha espresso un parere sfavorevole all'introduzione, alla somministrazione di menù vegani a bambini piccoli, cioè nell'ambito del nido, della scuola. Ha detto favorevole, un parere favorevole? Favorevole. Okay. Favorevole. Dal nostro punto di vista noi ci limitiamo diciamo, ad acquisire il parere della ASL e il parere dei medici pediatri. Di contro, se noi abbiamo una richiesta di un genitore per un menù vegano, non possiamo, in età così, diciamo, in età pediatrica, dai pochi mesi all'anno, ai 3 anni, non possiamo non erogarlo. La ASL ci diceva che sostanzialmente loro sono contrari, non sono favorevoli all'introduzione del menù vegano ai bambini al di sotto dei 3 anni, a meno che non ci sia una richiesta specifica del medico pediatra di base. E questo succede? Posso... Al momento, le dico, al momento questo dalle procedure che noi abbiamo, che sono quelle stesse validate dalla ASL, noi alla richiesta di un menù vegano da parte delle famiglie, anche per i bambini piccoli nei nidi, noi non possiamo non erogarlo. Va bene, va bene. Io devo chiudere, la ringrazio Gabriella Iacono di Milano Grazie Ristorazione. Grazie per questi aggiornamenti e insomma ne parleremo sicuramente ancora. È tutto per questa sera. Un ringraziamento a Cristian Goldoni, Riccardo Poli, Riccardo Bucciera in redazione, Roberta Frisani in regia. Noi ci risentiamo domani 18:20 con Si può fare. Ciao a tutti, buona serata da Alessio Maurizi. Ciao.